La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16.31 primi 27 secondi, Oscar Giannino in diretta qui dagli studi di Milano in questo mercoledì 10 febbraio, vi ringrazio per l'ascolto, ovviamente vi ricorda la versione di Oscar @radio24.it e agli ascoltatori, alcuni dei quali che hanno scritto, so che ascoltano anche la versione di Oscar nel pomeriggio, che mi hanno scritto per quanto stamattina diceva l'ospite Attenti a noi due insieme a Alessandro Milan con l'ex onorevole Paniz, avvocato che facendo il patrocinante di deputati che chiedono in giudizio che vengano confermati i vitalizi, continuava a dire che il vitalizio parlamentare è una pensione, e alcuni ascoltatori, di fronte al fatto che io insistentemente gli ho detto che per definizione la Corte Costituzionale, diceva Paniz, ma non è vero, perché le sentenze della Corte Costituzionale dicono il contrario, li volevo rassicurare. Tra poco pubblicherò poi anche su Facebook una spiegazione del perché sono stato così insistente nel dire che non è vero, e quindi vi darò gli estremi delle sentenze della Corte Costituzionale, ripeto, in base alle quali il vitalizio dei parlamentari non è, sottolineo tre volte, non è equiparabile a un trattamento previdenziale. Quindi se contesto un ospite lo faccio sulla base di quello che credo sia un dovere del giornalista. Un dovere del giornalista è rispettare tutte le opinioni, ma se poi le basi di fatto da cui derivano le opinioni sono erronee o infondate, il giornalista esiste per porre un filtro alla fondatezza di quello che dice l'ospite. E in quel caso, ripeto, le dichiarazioni di Paniz sul fatto che per sentenza della Corte Costituzionale il vitalizio dei parlamentari è una pensione vengono invece smentite, cioè le sentenze della Corte Costituzionale dicono esattamente l'opposto, e quindi proprio per questo si può intervenire sui vitalizi. Ma detto questo, l'argomento della giornata è invece relativo, argomento giustizia, sotto argomento i risarcimenti a cui i cittadini italiani da qualche anno a questa parte hanno diritto di inoltrare richiesta in caso di procedimenti giudiziari che si protraggano oltre i termini di legge, e quindi per la durata eccessiva dei processi. Sotto argomento ulteriore, le limitazioni che in legge di stabilità, in un silenzio generale, sapete che la legge di stabilità finisce sui giornali soprattutto per i provvedimenti economici di finanza pubblica, quello che cambia nelle tasse che dobbiamo pagare o nelle spese che vengono rimodulate, ma la legge di stabilità è un omnibus in cui ci finisce dentro di tutto, e ci è finita anche una limitazione molto sostanziale, vedremo come sostanziale, del diritto di qualunque cittadino debba dire o sia soggetto a un procedimento di tipo civile o penale, quando invece lo Stato non è in grado di rispettare gli impegni alla giusta durata di un procedimento. C'è una legge, la legge Pinto, che porta il nome del parlamentare a quale bisogna elevare un ringraziamento sempiterno, perché impegnandosi su questa trincea di civiltà giuridica e di difesa dei diritti di noi tutti, è entrato nel nostro ordinamento qualche anno fa, e in legge di stabilità si è deciso invece di tagliarla. Allora io vi chiedo, una volta che avrete capito, ora che riepilogo e poi passo direttamente all'ospite per farvi capire meglio quali tipo di limitazioni sono state introdotte per far pagare meno lo Stato, ecco, per far pagare meno lo Stato a noi che abbiamo il diritto di chiedergli invece questi soldi, vi dico anche perché io come garantista sono sensibile al tema, però mi è capitato qualche anno fa di apprendere da un giornale, del tutto casualmente, nel senso che io non ne sapevo nulla all'epoca, che nell'ambito di una indagine che era in corso qui in Lombardia, un ufficiale di polizia giudiziaria che conduceva le indagini come delegato da un pubblico ministero, ascoltando alcune telefonate che in qualità di giornalista facevo a un'utenza che era intercettata, che naturalmente io non sapevo fosse intercettata nell'ambito di un'indagine, aveva richiesto al pubblico ministero la mia carcerazione preventiva. Vi assicuro che leggere queste cose sui giornali, come capiterebbe a chiunque di noi, riguardo al passato, dice, e ti rendi conto che organi dello Stato si proponevano di arrestarti e tu non sapevi nulla, ovviamente, come ci sta, ma soprattutto non sai, non riesci a capire nulla leggendo di che cosa si tratti, fa una certa impressione. Naturalmente poi è finito tutto in archiviazione generale da parte dello stesso pubblico ministero e così via, quindi si trattava di un eccesso di zelo da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria. Però quella vicenda, per i brividi che mi ha fatto passare nella schiena e alcune notti insonne prima di capire di che cosa si trattasse, mi ha ulteriormente sensibilizzato a questa faccenda, ed è una faccenda quindi che riguarda non solo chi, come forse pensano alcuni o molti di voi che non hanno avuto mai a che fare con la giustizia italiana, pensano che avere a che fare con la giustizia significa essere tra virgolette portatore di problemi, di devianze. Qui si tratta in questo paese dai procedimenti civili, da quelli che hanno a che vedere con i diritti condominiali alle richieste di farsi pagare dai clienti, fornitori e così via, fino naturalmente ai procedimenti penali, si tratta di cose invece che riguardano la vita di milioni di italiani e che non configurano affatto l'interesse di chi può essere soggetto a ritardi nei procedimenti, come se si trattasse di una minoranza di italiani delinquenti. Non è proprio così. Ecco, se poi qualcuno di voi, magari un imprenditore o piccolo imprenditore o un professionista, ha avuto a che fare, per ragioni inerenti anche alla professione, a vicende che hanno a che vedere con la giustizia civile, eccetera, sa che non è così. Allora, quando lo Stato, zitto zitto, per contenere le spese, taglia un diritto sacrosanto invece dei cittadini nei confronti dell'adempienza dello Stato, secondo me bisogna a occuparsene, b fare molto casino, c tentare di far ricredere lo Stato. Ecco, dovete sapere che perché sono state introdotte queste modifiche, vediamo in breve di ricordarvele. Perché lo Stato nel frattempo, negli anni, ha accumulato uno stock di debito di oltre 455 milioni di euro per risarcimenti dovuti per procedimenti non definiti entro il termine massimo di 6 anni. Per farvi capire che è un fenomeno che non riguarda pochi cittadini, ogni anno negli ultimi 2-3 anni vengono presentate circa 12.000 istanze relative a richieste per cause definite con ritardi fino a 3 anni, sono un quarto circa, per indennizi tra i 3 e 7 anni, che sono il 55%, quindi 6.600 casi sui 12.000 del 2013. Ma ci sono anche poi richieste di risarcimento per ritardi rispetto alla durata del procedimento tra i termini di legge, che sono ancora più esorbitanti. Cioè, ci sono 2.400 nel 2013, questi sono i dati del 2013, in 2.400 casi le istanze sono state presentate per ritardi superiori ai 7 anni rispetto al termine di legge. Ecco, quindi stiamo parlando di casi eclatanti, di casi eclatanti che configurano una violazione di diritti elementari e fondamentali di ciascuno di noi. Nella media, lo Stato in questi ultimi anni ha liquidato per queste istanze circa 45 milioni di euro, e con la legge di stabilità si è data una stretta. Questi 45 milioni di euro scendono a 42 milioni nel 2016 e a 35,8 milioni nel 2017, ed è una scelta insindacabile dello Stato, che dice: io spendo di meno, voi fate pure istanza, ma io intanto i soldi stabilisco a tavolino che non ci saranno per tutti. E ripeto, ci sono 455 milioni di arretrato intanto pendenti dallo Stato per violazione dei diritti fondamentali dei cittadini. A tutto questo, cioè alla riduzione delle risorse necessaria a corrispondere davvero l'effettivo danno riconosciuto per le istanze di procedimenti di durata eccessiva rispetto ai limiti di legge, il legislatore, cioè il Parlamento, ha anche pensato poi di dare una stretta ai requisiti per presentare l'istanza, per così dire. Nella giustizia civile, si introduce come circostanza fondamentale per avere il diritto alla richiesta, ai poter inoltrare l'istanza, il fatto di definire il procedimento allo stato degli atti, quindi rinunciando ulteriormente a propri diritti processuali e cose di questo genere. Allora, voi capite che una modifica sostanziale dei requisiti per fare istanza, che significa attenuare i diritti del procedimento, in più con la prospettiva che lo Stato taglia i soldi negli anni a venire alle istanze già accolte, configura un vero e proprio attacco a questo diritto, che tanta fatica si era fatto per introdurre il nostro ordinamento. Allora, abbiamo innanzitutto con noi per parlarne Michele Pinto, avvocato, ex senatore, autore e relatore appunto della legge, la legge tecnicamente la legge 89 del 2001, quindi sono passati 15 anni, nota appunto con il suo nome, sull'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, all'avvocato Pinto. Grazie a lei, grazie a lei, buonasera. E poi abbiamo, torna ogni tanto a preoccuparci di mala giustizia, dei nostri diritti negati, il presidente delle Camere Penali, Beniamino Migliucci. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio a voi. Allora, Pinto, lei quando ha appreso di questa bella modifica alla legge di stabilità, che ha pensato? Il primo sentimento è stato di profonda delusione ed amarezza. Dico il primo in ordine alla legge, ma non è il primo rispetto al percorso che questa legge ha avuto 15 anni, da 15 anni or sono, come lei pochi minuti fa ricordava. Perché non è stato soltanto questo ultimo provvedimento ad incidere in maniera negativa, profonda, sul sistema organizzativo dell'indennizzo nei confronti di coloro che sono vittime di un tempo irragionevole del processo, ma già c'erano state una serie di iniziative legislative precedenti che avevano già dato colpi, se non fondamentali, ma certamente importanti e di rilievo alla struttura complessiva della legge e alla sua procedura di attività. Però, ritornando, attenendoci a questa disposizione nata proprio dalla legge che lei ha citato, la stabilità 2016, lei ha detto già gran parte di quello che forse avrei potuto dire io, e lo ha detto in maniera molto efficace e molto puntuale. Qual è il punto fondamentale, a mio avviso, di questa norma, che tende soltanto ad ottenere una diminuzione, un risparmio di spesa, una diminuzione di spesa, senza tener conto invece di un diritto che non è nato con questa legge? Il diritto preesisteva, certo. Questa legge ha avuto soltanto, se è un merito o una responsabilità spetterà a chi la giudica e la esamina, soltanto la capacità di nazionalizzare il diritto, l'esercizio ad ottenere l'indennizzo. Se è vero che il ritardo nella giustizia equivale talvolta alla denegazione della giustizia stessa, e se è vero che un cittadino ha subito un danno che è prevalentemente morale ma può essere anche economico, è chiaro che in base ad un principio generale che è universale, chi ha determinato un danno deve risarcirlo o, nel caso di specie, indennizzarlo. Che cosa è avvenuto con questa legge che stiamo in questo momento sintetizzando ed esprimendo? È stato prima non soltanto la diminuzione, ma forse questo è il lato meno significativo, dell'indennizzo previsto. Prima era al massimo fino a 1.500 euro annue per il ritardo effettivo, poi invece si passa da 400 euro a 800 euro. Ripeto, è già una diminuzione sostanziale, è un taglio che mi sembra anche questo irragionevole ed immotivato. La legge originaria non prevedeva né tetto né base, prevedeva soltanto il diritto da parte del cittadino di chiedere e il dovere da parte del giudice interpellato di valutare la sussistenza del danno e di liquidarlo nella sua previsione e nella sua entità. Valutandone la congruità, quindi. Valutando la congruità. Perché, la congruità, perché ai miei occhi, glielo dico sinceramente, già l'indennizzo da 500 a 1.500 euro per ogni anno che eccede al termine di ragionevole durata è poco più di una somma a titolo simbolico. Vederlo scendere a 400 euro per ogni anno che ecceda il limite assume poco più che, devo dire, la sembianza di una marameo, ecco come devo dire, perché il problema è che bisognerebbe anche valutare la congruità, cioè l'entità determinatasi di un danno per via dell'irragionevole durata del procedimento. Però non è questo, come dicevo prima, il maggiore elemento negativo della legge. Quello che è invece più significativo e anche, a mio sommesso avviso, più grave è la introduzione di una serie di ostacoli, esatto, che hanno una sostanziale finalità di dissuadere il ricevente, scoraggiandolo quasi a dirgli: è inutile che presenti la tua istanza per esercitare un diritto, questo diritto ti può anche aspettare, ma ci sarà tanto e tanto del tempo, dell'opportunità, della difficoltà per superare questi ostacoli, e che quasi quasi ti consiglio di non tentare l'istanza, l'inoltro dell'istanza e della domanda. Basterà per esempio pensare, tra tante cose che si potrebbero dire, questo principio dei cosiddetti rimedi preventivi. Ecco, che cosa sono i rimedi preventivi? Lo dico a quei pochi ascoltatori che non hanno titolo per averne preventiva conoscenza. I rimedi preventivi sono una serie di indicazioni che sono particolarmente onerose e pesanti, come per esempio, per citarne soltanto qualcuno, bisogna prima di tutto presentare un'istanza per l'accelerazione. Cioè io, parte nel processo, devo presentare un'istanza di accelerazione. Ma l'accelerazione non è l'in sé di un procedimento, secondo giustizia, che non deve essere irragionevolmente protratto, ma deve concludersi, svolgersi e concludersi in tempi che siano giusti, che siano equi, che siano compatibili. No, io devo fare la domanda, benissimo. E questo potrebbe anche essere, così, in un certo senso, consentito. Poi invece, ecco, devo anche fare qualche altra cosa, devo ricercare ed indicare riti sommari nella trattazione del processo. Cioè io stesso devo limitarmi nella individuazione di quali sono le procedure, le attività che io devo svolgere, perché non devo tanto come difensore o come cittadino occuparmi perché un diritto sia riconosciuto, sia esercitato e abbia il suo solenne riconoscimento da parte della giustizia. Ma io mi devo preoccupare addirittura di prevedere quale può essere l'ostacolo che io devo superare, quali sono i doveri che io devo compiere e quali sono le autolimitazioni che devo imporre al mio esercizio di difesa o di attuazione di un diritto che la legge mi riconosce. E così, per esempio, la scelta anche del rito. Lei ha fatto un riferimento che mi sembra anche questo puntuale. Se c'è un procedimento civile, un rito che viene previsto, che viene scelto e viene individuato, e questo deve essere rispettato, esatto, nella volontà, esatto, della parte attrice. Non si può invece dire no, se deve usare il sistema sommario rispetto a quello normale. E in virtù di che? Qual è il diritto che consente allo Stato di limitare la mia azione, no, di difesa entrando attraverso un'azione che posso dire che è di violenza? Certo, come se poi ci fosse addirittura da parte del cittadino o del suo difensore la preoccupazione non tanto di compiere tutto quanto in sua facoltà e secondo legge per raggiungere un risultato, ma addirittura dovrebbe preoccupare di individuare quali sono i mezzi più rapidi, più celeri, anche se questi dovessero ostacolare, rendere difficile o impedire il raggiungimento della mia giustizia, della soluzione giusta alla mia vertenza. Continuando così potremmo veramente citare una serie di tantissimi allora aspetti un secondo, perché la dobbiamo interrompere perché c'è un minuto di informazione sulla circolazione stradale. Aggiungo che tra le altre circostanze restrittive per consentire al giudice a cui sottoporreste la vostra istanza di dirvi no, non siete ammessi, c'è anche la valutazione sull'abuso da parte vostra, come cittadini che fate l'istanza, di poteri processuali nell'ambito del procedimento. Cioè si apre anche l'ipotesi che voi veniate giudicati e non ammessi a quel punto all'istanza, perché si dice che avete ecceduto nella vostra difesa nel procedimento, per dirla in termini non tecnici. Capite che è un pochino dura da buttarla giù, visto che poi il procedimento è durato anni e anni più di quanto doveva durare, e per di più vi dicono no, non ti ammettiamo, ti sei difeso troppo. Capite che, almeno a me, fa amaramente ridere. Tra un minuto torniamo. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, stiamo parlando dei limiti introdotti in legge di stabilità a fine di diminuire l'esborso dello Stato per il riconoscimento del giusto risarcimento a cittadini italiani, alla media 12.000 che ogni anno, grazie a questa legge, la legge Pinto del 2001, sono viste riconoscere il diritto al risarcimento per una eccessiva, irragionevole durata di un procedimento giudiziario, civile o penale, stretta sia sulle somme comunque insindacabilmente già da prima di anno in anno fissate dallo Stato. Non è che lo Stato paga perché deve pagare, lo Stato decide lui quanto paga e chi paga, e secondo delle restrizioni formali molto pesanti a vedersi riconoscere poi il diritto. Io vi ricordo, questo per ricordare la storia, che nel 2012 il governo di centrodestra, Castelli ministro, già tentò per decreto in realtà di sopprimere il diritto al risarcimento per l'irragionevole durata della giustizia. Quindi la politica ci ha provato molte volte, spinta dal Ministero del Tesoro. La domanda che faccio a Beniamino Migliucci, ma di solito diciamo sempre e ce ne lamentiamo che in Parlamento ci sono troppi avvocati, però questa volta gli avvocati sono andati a vuoto in legge di stabilità. Ma io non so se siano solo gli avvocati, anche perché poi gli avvocati seguono evidentemente le direttive dei partiti. A me sembra di dover sottolineare quello che diceva prima molto bene l'onorevole Pinto, che è anche un pessimo messaggio che passa. Lo Stato invece di assicurare il diritto ai propri cittadini ad avere un processo civile o penale in tempi ragionevoli, pensa di limitare i diritti e di porre una serie di ostacoli all'esercizio dei diritti stessi. Questo è un dato preoccupante, pone ostacoli al fine di ridurre le spese che, come abbiamo sentito prima, sono evidentemente preoccupanti per il bilancio dello Stato, ma questo significa anche abdicare a voler curare una malattia, esatto, che è quella della durata dei processi. Esatto. È un messaggio pessimo che passa. Sembra quasi che in Italia ci si debba rassegnare ad avere processi infinitamente lunghi. Ma certo, questa è l'altra faccia, mi permetta di dirlo, le chiedo un'opinione, questa è l'altra faccia dell'allungamento dei termini di prescrizione che i magistrati chiedono sempre, è l'altra faccia. E pensi che addirittura la legge Pinto sotto questo aspetto viene modificata, nel senso che se nei confronti dell'imputato il processo si prescrive non ha più diritto ad avere alcun indennizzo, come se arrivare alla prescrizione fosse comunque una gioia per chi è stato sottoposto a un processo per tantissimi anni e si è visto negare la giustizia. Quindi questo è un tema, credo, molto importante. Ottimamente ha già detto l'onorevole Pinto, il tema però è preoccupante ed è passato in una legge di stabilità senza che molti se ne occupassero. Certo, perché a quel punto le procedure diventano spedite e naturalmente le commissioni non approfondiscono, e nel frattempo però lo Stato utilizza questo per limitare i nostri diritti. Questo è un diritto fondamentale per noi tutti, perché riguarda il diritto alla libertà, il diritto alla proprietà, a poter disporre il proprio patrimonio, e anni e anni questo diritto viene in realtà sospeso in molte circostanze dai procedimenti, e non abbiamo più il diritto di farci risarcire, anche se il risarcimento era poco più che simbolico, come avete capito. Questa è una roba dura da buttare giù, perché lo Stato a queste illibertà ce le infligge nel silenzio e noi non reagiamo. Purtroppo, mi dispiace dirlo, ma è così. Sentiamo come la pensa Antonio da Brescia. Antonio, prego. Buonasera. Buonasera. Volevo riferire due cose, sì, anzi tre in particolare. La prima, io ho avuto un processo in contumacia per il mio avversario. E quando l'ho vinto, l'avvocato mi ha consigliato di segnalare subito la sentenza per essere risarcito. Perché quanto era durato? 13 anni. 13 anni. Ah, ecco, in provincia di Potenza, specifico anche questo. Sì. Io invece non ho ascoltato e ho aspettato l'anno e mezzo, perché poi c'era di mezzo le ferie e così via, bella, e poi ho notificato. E cosa ha ottenuto? E ho ottenuto il rimborso che mi spettava. Però l'avvocato lo aveva sconsigliato. Mi aveva sconsigliato di farlo. Però quando invece io ho chiesto, ma per il ragionevole durata del processo, posso richiedere il risposta? Rimborso? Fai la pratica. Cioè, no, non te la faccio. Perché se no andrei a sconfessare l'opera dei giudici. Ecco, quindi c'è un altro aspetto delicato che riguarda a questo punto la consulenza professionale, per così dire. Comunque, ferita aperta, io felice di averne parlato, ringrazio gli ospiti, continuate con la 24, appuntamento all'8:15 domani mattina con Attenti a Noi Due, io e Alessandro Milan.